Europa 24. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati a questo appuntamento con Europa 24. Anche quest'estate è dominata in Europa dall'emergenza immigrazione e dal tema sbarchi. Ne avrete sicuramente sentito parlare anche nei nostri notiziari. Quella che vogliamo fare per oggi è una riflessione accompagnata da un excursus storico per meglio comprendere dove la politica comunitaria abbia sbagliato, quantomeno negli ultimi 10 anni. Perché tutti questi ritardi nel dotarsi di una politica comune in materia di immigrazione, quanta parte di colpa hanno avuto sia le istituzioni comunitarie sia gli stessi paesi europei con le loro divisioni e le loro gelosie? Ne parliamo con Antonio Villafranca, responsabile del programma Europa presso l'Istituto ISPI di Milano. In realtà la politica di immigrazione non è una competenza esclusiva dell'Unione Europea, rientra tra quelle che sono le cosiddette competenze concorrenti. Questo è un aspetto fondamentale perché molto spesso nel dibattito italiano, anche di altri paesi, lo si tende a dimenticare. Concretamente questo vuol dire che essenzialmente la legislazione comunitaria può esserci in questo campo, ma in ogni caso va ad integrare casomai la legislazione italiana. Ad esempio, se uno guarda il Trattato di Lisbona, è vero che è stato inserito appunto in maniera più ampia, è stata inserita la competenza sulle politiche migratorie, però ad esempio si dice in modo molto chiaro che queste non possono riguardare il numero totale di immigrati che gli stati possono accettare. Allora, se questa è la situazione, vuol dire che essenzialmente l'iniziativa sul campo delle migrazioni rimane nelle mani del Consiglio. E il documento base, l'accordo base, è l'accordo di Dublino. Accordo di Dublino che tra l'altro è stato modificato anche un paio di volte. Cosa dice essenzialmente questo accordo? L'accordo dice che il paese in cui l'immigrato arriva per primo è il paese che se ne deve prendere carico. Con le ulteriori due modifiche in realtà sono stati introdotti dei margini di flessibilità. Ad esempio si dice che se l'immigrato chiede il ricongiungimento familiare verso un altro paese membro, allora ecco che deve essere trasferito verso questo paese membro. O se l'immigrato nei mesi precedenti ha avuto un permesso di soggiorno, comunque è stato in un altro paese dell'Unione Europea, allora ecco che ancora una volta deve essere trasferito. Ma tranne questi, diciamo, casi eccezionali, l'immigrato essenzialmente sta nel nostro territorio. Questo è un po' il quadro macro, però secondo te dove si è sbagliato? Dove l'Europa ha sbagliato negli ultimi 10-15 anni? Ma sicuramente hanno sbagliato i capi di Stato e di Governo, nel senso che proprio per i motivi che abbiamo detto prima, l'iniziativa essenzialmente spetta al Consiglio, cioè essenzialmente sono i leader politici europei che devono mettersi d'accordo e devono decidere in che modo gestire le politiche comunitarie in tema di migrazione. D'altra parte, se tu dai anche all'agenzia Frontex soltanto pochi spiccioli del bilancio comunitario, è evidente che questa è una indicazione molto chiara del fatto che i leader politici non vogliono che questa diventi una politica comunitaria, perché sanno benissimo che quello delle immigrazioni è un tema politicamente molto sensibile e vogliono gestirlo a livello nazionale. La Commissione Barroso ha sicuramente fatto poco in tema di immigrazioni, però la Commissione Juncker, bisogna riconoscerlo, effettivamente sta facendo molto di più, molto attivo, ha presentato l'agenda per l'immigrazione, un piano di riparto degli immigrati, anche se sappiamo che purtroppo sempre i capi di Stato e di Governo hanno messo i bastoni tra le ruote. Questo però alla fine dimostra anche una poca lungimiranza europea. È chiaro che questo problema sarebbe dovuto entrare molto più prepotentemente nell'agenda europea. È chiaro che questa crisi sarebbe poi prima o poi esplosa. L'Europa è un termine che rischia di essere ormai inflazionato e quasi vuoto. Che vuol dire l'Europa? Sono ancora, lo ripeto, i capi di Stato e di Governo. In questo caso decidono assolutamente loro e per motivi anche di strumentalizzazione politica del tema preferiscono assolutamente occuparsi della cosa a casa, anche perché ognuno vede anche il tema delle migrazioni in maniera diversa, da prospettive diverse. Purtroppo l'Europa, cioè i paesi europei che vengono fuori dalla crisi, sono dei paesi che guardano sempre di più al loro interno e che non sono più disposti, non vogliono più occuparsi di quello che accade alle proprie frontiere. Ed è tutto per questa puntata di Europa 24. Un saluto, buon pomeriggio da Sergio Nava. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.